Ok, buongiorno. Buongiorno. Claudia, ci siamo già incontrati una volta e mi hai già fatto vedere la biblioteca, però adesso, e soprattutto la parte internet point, però adesso ti chiederò appunto per la trasmissione del podcast di cominciare con presentarti di nuovo. Quanto tempo è che sei? Prima cosa, sei Claudia Zarate, Sì, di dove sono sei? dell'Argentina, però il mio nonno è venuto da Svizzera all'Argentina. Diciamo che sono una seconda generazione che ritorna alla Svizzera. Ah sì, di dov'era il tuo E mio nonno? nonno è del Ticino, di Giuviasco. Giuviasco. Sì. E il cognome è Rosi Simonelli, per quello no. Ah sì, Sì, il il tuo mio papà nipote? è vasco, di Spagna, del Zarate. Parli anche il vasco? No, no, no, no. No, se, in Argentina si mescla un po' tutte le culture e si uniscono anche in un solo idioma che è l'spagnolo. Con il Porteño che invece ha forte influenza italiana, no? Sì, quello più il porteño non è. Bah, lì hanno arrivato emigranti perché è il porto dell'Argentina. Più lo che si è fatto, diciamo, come un dialetto. Si parla un dialetto, mescla dell'spagnolo, mescla di italiano. Per esempio, la parola, si usa la parola lavoro, però noi invece di lavoro è lavoro. Sì, potrebbe E anche essere un quindi. accento regionale italiano, non lo so, non essendo nemmeno io di lingua madre, Ecco, non no, so. si mescla molto lo che si è fatto un po' la mescla anche con l'arabe, molte parole arabe che lo hanno castellanizzato, diciamo, lo hanno Ma spagnolizzato. persino in spagnolo ci sono parole arabe, E sì, per l'influenza del Moro, no? quando Sì. hanno invaso tutta la zona, quella lì di sotto. E quando i tuoi antenati, diciamo, sono emigrati da Giubiasco, sono partiti da soli o c'era una comunità giubiaschese, No, no, il diciamo? mio nonno è partito da solo, perché boh, i fratelli, più il mio bisnonno, è andato verso gli Stati Uniti. E Anzi. lui, il mio nonno, è andato verso sur, verso l'Argentina, non so perché, mai ha parlato di quello, è andato in un'altra direzione. Ma io conosco un paese vicino a Sorrento, si chiama Massalubrense, dove loro hanno tutti emigrato verso Venezuela. E poi qua vicino, sei mai stata a Malvaglia? No, no, no, A Malvaglia invece c'è stata una fortissima emigrazione francese, poi sono tornati. Però io ho insegnato in quella zona, allora i ragazzi, una volta c'era uno che faceva un pettegolezzo, e ha detto se si deve fare la piplette, cioè se smetti di fare la pettegola, per piplette sarebbe la portinaia in francese. E questi sono rimasti così e mi hanno detto ma hai imparato il nostro dialetto? Perché avevano riportato dalla Francia questa parola. Quindi sembra che siamo fuori tema, ma non credo, perché siamo nella Bisi, Sì, la che biblioteca interculturale. sì, e quindi il tuo, diciamo, passato familiare, il tuo ritorno qua ti rendono particolarmente adatta a lavorare in questo contesto, no? Sì, un po'. Perché conosco un'altra cultura e la mescla della cultura, che è l'influenza della cultura italiana sul paese latinoamericano un poco, è molto forte con l'emigrazione che ha avuto. Boh, non so che altro. No, ma soprattutto anche i tuoi avevano emigrato e tu ti Sì, ritrovi io ritorno. anche. E da quanto tempo sei qua Io adesso? sono da 3 anni. Adesso è marzo del 2004, marzo del 2004 che sono qui, sono 3 anni. In Argentina cosa facevi? E in Argentina, boh, si sopravvive, boh. No, faceva analista programmatore, più è l'analisi di una ditta che la programmazione in sì, il di fare il software. Mi piaceva di più le interrelazioni, la investigazione, investigare come reemplazare o come fare di modo che sia più facile per l'essere umano la interrelazione con il computer e la maniera di lavorare a mano, è dire, si fa un passaggio di lavorare a mano a lavorare con il computer, sì. Quello è più lo che faceva, perché io doveva fare una entrare in relazione con l'impiegato, capire lo che faceva e quello interpretare se si poteva fare un software per metterlo come con il computer. Quindi facevi lo stesso del software come si dice interfaccia, no? A livello di o creare addirittura delle applicazioni sì, specifiche sì, per i bisogni. Sì, sì, sì, perché si lavora più con un software a misura della ditta. Era una grossa ditta allora? Io lavoravo con un consultore informatico, ecco. Dove la ditta andavano a domandarle che cosa potevano fare per ottimizzare il lavoro. Ah, un cugino che fa questo. Entonces, nel campo della sicurezza. Ecco, lì, bueno, eravamo piccoli, eravamo 4 o 5, e uno andava sul campo a fare questa investigazione di come si lavorava la ditta o come ognuno degli impiegati lavorava. Dopo si fa un informe, anche si fa un diagramma di flusso. Lì va a un programmatore che lo trasforma in linguaggio del computer. Sarà un lavoro di andare piano, perché uno doveva capire che realmente quello che aveva bisogno, perché no, non si deve guardare al computer come un nemico, sino come un amico, perché hai molte cose che il computer non può fare, non può reemplazare l'uomo. Si può ottimizzare il lavoro dell'uomo, però non reemplazarlo. Quello era un po' anche lottare con gli impiegati che ti dicano che cosa facevano, perché era il temore di che lo reemplazavano. Entonces, io le dicevo che no, che questo era per ottimizzare il suo lavoro. Sì. Quindi uno pensa a un analista di sistema come qualcuno in camice bianco, tutto di lavorando in un cose tutto disincarnate, tecniche, ascendiche, no. E non è affatto così, no, allora. No, l'analista no, deve lavorare con la gente, deve capire come funziona tutto, per poter fare un software, un programma adatto alla vita, e aiutare l'impiegato. Sì. Quello è lo che mi hanno insegnato a me, io l'ho scritto così. Sì. Lo faccio così. E quindi mi capisco meglio adesso perché, adesso torno alla Bisi, insomma per te gestire un internet che sembra molto diverso appunto quando tu pensi al cliché che sia dell'analista di sistema, sembra un lavoro molto diverso e forse potrebbe sembrare noioso, in realtà non c'è tanta differenza perché anche qui, no? Hai lo stesso ruolo di facilitatrice. Sì, perché arriva l'utente, a volte non sanno che fare con il computer, bueno, io lo assisto, lo aiuto a cercare cose, al motore, a insegnargli un po' il motore di ricerca. Non prendono una lezione, però io mi piace perdere, non perdo, aiuto 10 minuti all'utente a trovare lo che cerca e dopo vanno tranquillo y sano que possono contare con una persona que lo asista senza problema. Sí, questo è importante. Il motore di ricerca, il problema è che uno dimentica com'era la prima volta che ha utilizzato il motore di ricerca. Sì, io ricordo ancora una volta, tutto all'inizio c'era un cybercaffè, forse c'è ancora il primo in Ticino, qua vicino a Gorduno, al Pasinetti. Eravamo andati con mio marito che voleva cercare qualcosa su uno scrittore che si chiama De Lillo e non avevamo trovato una cippa perché mio marito aveva scritto De Lillo sbagliato con uno spazio mentre non ce n'è. Cose stupide, sì, così. Sì, sì. Dobbiamo pensare che il computer è stupido, che uno deve darle con precisione e con esattezza la ricerca, se no sbaglia tutto. Anche se adesso sono più tolleranti, vedo che con Google, anche se... Se fai un errore di partitura ti dice, ma non è che in realtà cercavi. Io credo che l'evoluzione ha cominciato con l'evoluzione. Uno impara dell'errore. Quindi questo hanno, io credo che lo sistemista, lo programmatore di Google hanno cominciato a vedere l'errore che facevano l'usuario e hanno cominciato a dire, démosle un'opzione in più per vedere se cercano correttamente o no. Tutto c'è un'evoluzione. Ma non ci fosse anche un effetto? Scusa, continua. Io ho imparato quando non c'era internet, ho imparato a fare il programmatore anche di sistemista, senza internet. Dopo 2 anni ha cominciato internet e queste Windows. Io sono della vecchia data del DOS, che avevamo che imparare comandi. Ma infatti all'epoca quelli che io il primo computer l'ho avuto nell'84, era un Mac, e ricordo i colleghi di mio marito universitari presuntuosi che loro avevano il DOS e ci guardavano come degli analfabeti perché utilizzavamo il Mac che aveva delle cose facili e vabbè, poi Windows ha copiato e non entriamo in quel discorso. No, cioè con Windows è un peligro quel sì. Campo lì è... sì ma allora appunto qui la Biblioteca Interculturale della Svizzera Italiana quando nasce? Nasce più o meno 3 anni fa. 3 anni fa. Era un piccolo luogo, una centina di libri e adesso dopo 3 anni abbiamo cambiato il luogo e abbiamo annexato anche Internet Point. I libri sono più o meno 2000 e in lingua, se non sbaglio, sono 13 lingue, e libri in 13 lingue che abbiamo qui. E siete anche in una rete, no, di biblioteche? Sì, sì, sì, siamo in... Libri senza frontiere, sì. Che è una rete di biblioteche interculturali in tutta la Svizzera. E ogni anno si fa una riunione in Monte, nel luogo dello Focolari, dove si intercambia informazioni. Che è lo che fanno la Biblioteca Interculturale di Ginevra, di Lucerna, di tutte le Svizzera, si riuniscono i responsabili di ogni biblioteca e parlano di cosa che succedono con gli stranieri. Per esempio quest'anno hanno fatto una psicologa, ha fatto una conferenza dove ha parlato l'importanza di del libro, di leggere un libro a un ragazzo, anche a un bambino, nella sua lingua, nella lingua di origine, per approssimarlo e non staccarlo tanto dell'origine di questi bambini. Sì, credo che sia molto molto importante questo. E questa rete, appunto, di biblioteche hanno anche un prestito interbibliotecario? Sì. Noi abbiamo cominciato, la biblioteca ha cominciato con un prestito, che anche adesso abbiamo un fondo di Libro Senza Frontiera in lingua straniera, che sono in croato, spagnolo, portoghese, tre lingue in più. Ma mettiamo un utente che vorrebbe un libro che voi non avete qui, c'è un catalogo comune che potete consultare e chiedere? Il catalogo comune no, però possiamo mediante email comunicarnos con l'altra biblioteca. E volendo ve lo mandano? Sì, sempre c'è questa... C'è una forte spesa per l'utente in un caso del genere? Mettiamo che cerchi un libro che... Io credo che no, non mi è successo mai, però credo che solo il gasto del mio, magari lo prendiamo noi, no? Sì. Tutto dipende, no? Veramente non ho avuto... Nessuno mi ha fatto quella domanda. Mi ha chiesto un libro per adesso. E quindi, e poi l'Internet Point della biblioteca culturale, come è nato? Era previsto sin dall'inizio? O... No, io credo che è nato per la necessità. Sì. Degli utenti che era straniero, che arrivava a un paese che non aveva un computer, ha cominciato, credo che così, con il bisogno della gente che arrivava. Sì. E altro, io credo che guardando intorno non c'è nessun altro internet point che abbia la quantità di macchine che abbiamo noi, anche la facilità di... Quante sono le macchine? Per adesso funzionando sono 10. Aspetta, c'era all'Università della Svizzera Italiana, avevano in biblioteca dei computer che si poteva accedere, ma non so se... Da quando ho la mia linea non so più cose. No, io credo che solo per i ragazzi che sono dell'università, che frequentano l'università, è possibile andare. A qui è più per una persona che arriva per turismo o una persona che arriva da poco a qui, che non è affermato nel senso di che non hanno un computer e tutto questo. Io ricordo durante la guerra in Bosnia avevo un'allieva bosniaca che poi hanno dovuto tornare in Bosnia, però lì il problema era anche che non avevano nemmeno l'email, cioè penso che questo sia un po' cambiato. Sì, no, del tema della globalità che si è cominciato a parlare 2 o 3 anni fa ha cambiato in tutti i paesi del mondo e si è intensificato questa rete. Sì, tutti almeno, non tutti, ma quasi tutti hanno il web email, lo sanno come farselo, sì. Conoscono gente che sa come spiegarlo. Sì, no, io credo che molti hanno già l'email. Ma io ricordo cos'era, 3 anni fa che c'era una cosa che si chiamava Tour de Clic, che è organizzata da l'UF, come erano arrivati con un camion e tanti computer collegati a internet e così la gente poteva provare. E ricordo un signore che faceva il cameriere, che voleva comprare il computer perché i figli stavano crescendo, sarebbero giunti all'età che avrebbero chiesto il computer. Ma lui non aveva mai toccato una tastiera né un mouse. Quindi cominciata lì la difficoltà. Ti capitano? Sì, mi capitano. avuto gente che però sanno come digitare come una macchina di scrivere comune. Lo che non sanno molto è cercare in rete o non vi era proprio fisicamente. Il mouse faceva una grossa fatica a muoverlo. No, mi è capitato tanto. Una nullità così, grazie a Dio. Però non lo chiamerei una nullità, non facevo un lavoro. In computer, no? È chiaro, no? Non nel sapere, sino sul computer. Però mi è capitato che ho dovuto aprirle un'email a un signore. Però io lo faccio con piacere. No? Scusa se rido, perché la mia prima esperienza con l'email è stata quando dovevamo mandare con urgenza dei documenti. Prima utilizzavamo il fax, però loro volevano il file, avevamo il computer. Scendevo in un cybercafé e poi la signora, non avevo indirizzo, lo spediva dal cybercafé, faceva l'email, cliccava su delle cose e poi arrivava un coso che aveva la forma di una grappetta sullo schermo e poi spediva e mi diceva: ho messo nell'email, ho allegato il documento che tu avevi nel disco. Possibile questa cosa. Allora uscivo da lì, prendevo il telefono e chiamavo, dicevo: è veramente arrivato. L'ho fatto 4 volte, poi dopo ho capito, ma sembra così semplice, ma in realtà per chi è totalmente nuovo è come guidare la macchina, no? Sì, mettere la frizione al momento giusto. Io credo che questo Windows ha fatto più facile le cose per l'utente. E uno deve avere pazienza di scriccarle, però lo capisco. No? Se rispetta a DOS, l'allegato io non le faccio fare allegato, perché è un po' più complicato per molta gente. Io lo faccio per copia e incolla, è più facile. Lo guardano, lo vedono. Gratulazione. No, a me seccano enormemente quelli che ti mandano l'allegato che ti fa l'email di un mega quando ci sono 10 righe di testo da copiare. Esatto. No, io ma se vogliono mandare una foto, per esempio, hanno fatto la foto del bambino e la vogliono mandare alla nonna, glielo lasci fare o gliela fai mettere su Flickr, poi lo fai? Se la foto è in carta e le faccio uno scanner. Ah, addirittura, sì. Sì, le faccio uno scanner e io lavoro con il Word. Faccio l'immagine e la prendo dallo scanner. Non lavoro con il software delle stampanti. Perché lì per molta gente è più complicato. Io semplifico. E a quel punto possono fare il copia e claro, incolla. Tu vai a inserisci. Sì, sì. Lì sta lo scanner. Inserisci immagine dello scanner. Tu se le dai l'ok e l'immagine arriva sul Word. E dopo le faccio copia e incolla e vado all'email. Io cerco di semplificare le cose per la persona che usa il computer per cose non relative al lavoro, sino per comunicazioni e queste cose. Appunto, comunicazione, tu mi hai fatto vedere l'ultima volta anche un programma vocale? Sì, per accedere a chiamata, sì. Per chiamare a qualsiasi parte del mondo. Come si chiama? Voice Tump. Ah, sì. Voice Tump. E c'è un periodo di tempo che sono gratis le chiamate all'esterno. Cioè? Scusa, È come... Quando dici un periodo di tempo, è come se tu avessi un... Sì, no? Un certo numero di ore? Più che di ore, di chiamate, credo. Ah, ecco. O di ore. Questo l'ho scoperto fra poco. Però si può chiamare libremente, non c'è problema. e anche chiamare un numero di telefono. Un numero fisso deve essere. Sì, non un NATEL? No, NATEL no, sono due o tre paesi che accettano il NATEL. Però non si può parlare in Svizzera, deve essere fuori della Svizzera. E invece queste cose per voce, ma dove funziona con... non con numeri di telefono, ma con un nome di utente, tipo Skype o credo MSN, anche è la stessa cosa, o Google Talk. No, non è lo stesso, questo è per chiamare a un telefono. Sì, non mi chiedevo se avevi... Ah sì, abbiamo il Skype. Avete Skype? Skype, però con quello devi avere il numero di utente, l'ID proprio. E avere un credito. Se vuoi chiamare un numero. A un numero. Se ha l'altra persona, si hanno messo d'accordo alla stessa ora di chiamarsi, Sky, non c'è problema. Sì. No, però questo è. È anche abilitato quindi lo Skype Plus, dove la gente può pagare con un credito o no? Cioè devi mettere la tarjeta di credito. Per poter chiamare a un numero, sì. E lo possono fare qui? E sì, perché tu devi avere un account tuo. Sì. Quindi devi accedere alle Sky con tuo account. Ah, quindi se loro hanno già un account Plus, lo possono fare. Sì. E quello si è con il nostro account, no, perché noi non abbiamo il credito per quello. E sì, però significa avere una carta di credito, questo va bene per i turisti, magari meno bene per il profugo che sì, appena arriva. Per quello ho messo il Voice Tum, che non hanno bisogno di nessun credito. Ma questo sì, è molto interessante. Come età più o meno gli utenti che vengono qua? Sono molto giovani? No, sono già... una franca entro il 35 a 50 anni più o meno. Sì. E senti, come è finanziato tutto questo? Hai un'idea? No. Ok, allora quella no, posso trovare, perché ci sono indicazioni sul sito, per esempio c'è l'indicazione della se percentuale che siamo... culturale Migros, no? Questo è più lo che più o meno so, che è un finanziamento privato di persone che aiutano a questa iniziativa culturale di mettere una biblioteca con diverse lingue. Sì, no, ma se mai faccio un salto da Freddy a se in biblioteca adesso, no, ma è il giorno dove non lavorano, comunque. Noi mercoledì credo che, no, giovedì, non so. Sì, comunque posso provare a passare, ma c'è informazione sul sito, quindi non è molto grave. No, quello no. So che è per amici, per privato, però molto più no, non so. Sono qui da un anno e finisco adesso. A fine di questo mese finisco. Allora, visto che l'hai detto, stavo per far parlo. Finisci perché finisce il... Sì, io sono qui per un plan di integrazione professionale, plan di integrazione, un PIP, sì. Che è la durata di un anno. È arrivato all'anno, questo mese, a fine mese arrivo. E hai delle prospettive per dopo? Sì, ho fatto un colloquio la settimana scorsa con la... biblioteca cantonale, sto aspettando la risposta. Che bello, se tu saresti di nuovo, allora era per un lavoro di nuovo con gli utenti che usano i... No, più per catalogare e classificare i libri e fare un dossier, la ricerca, tutto quello. Anche devo stare al balcone, trattare avere una relazione con gli utenti e tutto. Però qua c'hai già un'esperienza, perché classificare i libri lo fate già, no? Sì, l'ho fatto. ho un diploma di biblioteconomia. L'ho fatto in Argentina. Sì. Quindi sei iperqualificata. Di più, sì. Eh sì. E uno si è abituato a fare sapere di più di tutti i lavori, avere più apertura lavorale. Sì. Ecco, ah, io qui adesso sto studiando contabilità, quest'anno magari prendo il diploma, sì. Senti, tanti auguri allora. E grazie. Veramente grazie per tutte le informazioni su l'aspetto della visita. Grazie. Okay. Ok. Allora, aspetta, adesso spengo.